In primo piano. Buona giornata, buona domenica, benvenuti da Mauro Meazza alla nostra rassegna stampa. C'è molto fisco sui giornali questa mattina nelle prime pagine, perché tiene banco naturalmente la frase del ministro Padoan che ha detto che bisogna abbassare le tasse. Effettivamente avevamo avuto qualche sospetto, scusateci se ci permettiamo di chiosare il ministro, ma c'è molto fisco anche perché ci sono ulteriori spunti anche polemici dati da alcuni recenti interventi del governo e poi anche delle cose più originali, come potremmo dire, perché sul Sole 24 Ore ad esempio abbiamo deciso di dare spazio alla riforma del catasto, che è un pezzo della più grande riforma del fisco, come sapete. Da qualche mese è stata definitivamente approvata la delega al governo per la riforma fiscale, quindi stanno prendendo corpo piano piano le misure che poi diventeranno efficaci nel corso dei prossimi mesi, probabilmente nel corso del prossimo anno. E allora sul Sole 24 Ore, giusto per non partire dalla frase di Padoan, vediamo invece questo titolo: catasto, riforma al via, nuovi rincari in vista. Perché l'operazione riordino parte con il rischio di aumenti del prelievo. Le rendite delle nostre abitazioni, delle abitazioni italiane, sono destinate a crescere fino a 10 volte e ci sono delle stime fatte appunto da noi, da Sole 24 Ore, sulle possibili aumenti. Tra le città dove le rendite catastali potrebbero aumentare maggiormente figurano Cagliari, Genova, ma anche Roma, Palermo e Napoli. Come sapete le rendite catastali non sono esattamente aggiornatissime, una commissione deve elaborare un complicato passaggio dall'attuale meccanismo di conteggio, di valutazione del catasto a un nuovo meccanismo, quello che sarà basato sui metri quadri dell'abitazione. Ebbene, tutto questo però non sarà indolore. Spiega bene Salvatore Padula in un'analisi che parte già dalla prima pagina del Sole 24 Ore di oggi, che qui è la difficile partita dell'invarianza di gettito, dove l'invarianza di gettito appunto è rispetto al totale, ma poi nel dettaglio dei singoli interventi che riguarderanno ognuna delle nostre abitazioni, bene, lì invece ci potranno essere i rincari. All'interno i lavori di Saverio Fossati e Giovanni Parente, un lavoro molto dettagliato anche con l'incognita degli aumenti appunto tra le città che vi dicevo prima, Cagliari, Genova, Roma e Palermo e Napoli figurano nei primi posti, ma poi scorrendo questa particolare e non invidiabile classifica degli aumenti più temuti troviamo anche città come Trieste, Torino e Milano. Parola chiave appunto, vi dicevo, invarianza di gettito è quella che poi dà il titolo anche all'analisi di Salvatore Padula questa mattina sul Sole 24 Ore. Un altro passaggio della riforma del fisco, del rinnovamento per il nostro sistema fiscale, è quello che è stato annunciato venerdì dal Consiglio dei Ministri, progetto di decreto legislativo che contiene il noto 730 o dichiarazione di redditi più in genere a domicilio, cioè precompilato sostanzialmente, quindi il fisco dovrebbe l'anno prossimo poter consegnare milioni e milioni di dichiarazioni già compilate ai contribuenti, i quali poi potranno integrare i valori segnalati dall'Agenzia delle Entrate e così completare in modo più semplice, si pensa, la dichiarazione dei redditi. Però non è tutto così facile. Sul 730 a domicilio c'è il nodo responsabilità, scrive questa mattina il Sole 24 Ore, scriviamo questa mattina sul Sole 24 Ore, perché facendo poi correzioni al modello che viene ricevuto ci si obbliga in qualche modo al visto di conformità, cioè a quel controllo effettuato dai professionisti o dai centri di assistenza fiscale, i CAF. Tutto questo con il calendario previsto per questa nuova modalità di consegna delle dichiarazioni è sul Sole 24 Ore oggi nella nostra seconda pagina. Ma ancora, tanto per parlare di tasse, questa mattina davvero le tasse e il fisco sono protagonisti nei giornali, insieme, va detto, alla frase di Papa Francesco molto forte, che ha scomunicato i mafiosi. Non c'è appunto alcuna possibilità per i mafiosi di stare nella chiesa. È intervenuta questa frase molto forte, molto netta, molto decisa di Papa Bergoglio, di scomunica dei mafiosi, e trova poi spazio appunto in alcuni dei giornali che trovate questa mattina in edicola. Torniamo però alle questioni fiscali. Blitz inutili, lotta mirata all'evasione, dichiara così il comandante generale della Guardia di Finanza, Saverio Capolupo, a Fabrizio Forché, che lo intervista oggi sul Sole 24 Ore appunto. La lunga intervista in cui il comandante generale si occupa appunto anche dei blitz, dicendo che sono contrari, gli chiede a un certo punto Forché: Renzi ha chiuso definitivamente l'epoca dei blitz tipo Cortina, secondo il premier sono dannosi. Approfitto di questa domanda, dice Capolupo, il comandante della Guardia di Finanza, per ribadire quanto da tempo vado sostenendo, ossia che la Guardia di Finanza non fa blitz. Non è una metodologia di intervento che condividiamo e, come detto in altre circostanze, faccio presente che il corpo non ha partecipato al blitz di Cortina. Noi svolgiamo un'attività costante sul territorio con migliaia di controlli silenziosi per acquisire informazioni non sempre disponibili nelle banche dati e prevenire e contenere la propensione all'evasione di massa, evasione che appunto anche ieri è tornata nel messaggio del Presidente della Repubblica, l'ha definita una minaccia potente che mina lo sviluppo. E poi un altro passaggio di cui si è parlato molto, un altro tema di cui si è parlato molto nei mesi scorsi, un po' meno nelle ultime settimane, la voluntary disclosure. La voluntary disclosure, cioè quelle misure che dovrebbero favorire o consentire comunque di riportare i capitali illecitamente detenuti all'estero. Illecitamente vuol dire appunto non dichiarati al fisco, e quindi in modo illecito detenuti all'estero in questo senso. Come giudica il progetto di legge sulla voluntary disclosure? Chiede Forché a Capolupo, il comandante della Guardia di Finanza. Lui dice: positivamente, vi abbiamo contribuito anche noi, del resto, con due nostri ufficiali che hanno partecipato ai gruppi di lavoro. Vedo con piacere poi che sulla stampa sta passando una mia proposta, quella di premiare chi usa quei capitali per investire in titoli di Stato e nelle imprese. Questo e molto altro, in realtà, perché l'intervista è abbastanza articolata e molto lunga, sul Sole 24 Ore di oggi, intervista di Fabrizio Forché al comandante della Guardia di Finanza, Capolupo, Saverio, comandante generale della Guardia di Finanza, Saverio Capolupo. Di tutt'altra scelta invece è la prima pagina del Corriere della Sera, che appunto dà spazio alla frase di Papa Francesco sulla mafia, sull'andrangheta, come l'ha pronunciata appunto il Papa. Il Papa ai mafiosi: vi scomunico, l'affondo in Calabria, l'andrangheta adora il male, combattetela. Una condanna con il linguaggio della chiarezza è il commento affidato a Luigi Accattoli, che dice: finalmente un papa dice che i mafiosi sono scomunicati e tutti capiamo l'antifona. Della rivoluzione di Francesco fa parte una semplificazione del linguaggio che lo espone a critiche all'interno della Chiesa, ma che rende comprensibili alle moltitudini le sue parole e a volte, come in questo caso, le mostra ispirate al sì, sì, no, no del Vangelo. Appunto, il Vangelo dice: sia il vostro dire sì, sì, no, no. E questo è stato appunto il passaggio del Papa, senza possibili equivoci a proposito della frase sulla 'ndrangheta. Sul Corriere della Sera, in prima pagina, anche la segnalazione di un sondaggio effettuato da Nando Pagnoncelli sull'indice di popolarità del governo in questo momento. Promosso il premier, dubbi sul governo. Il sondaggio segnala in prima pagina il Corriere: l'indice di popolarità raggiunge il 69%. È praticamente un record nei governi, almeno nei governi recenti. Gradimento record per il premier, dubbi sull'efficacia del governo. All'interno poi appunto il sondaggio che riguarda l'esecutivo, che è arrivato ai suoi primi 100 giorni di operatività, si segnala che provengono consensi per l'operato del governo e più diciamo ancora per il Presidente del Consiglio anche da un elettore di Grillo su due, 40,8. Poi viene ricordato la percentuale famosa sulla ottenuta alle ultime votazioni per il Parlamento europeo. Bene, viene giudicato bene, positivamente l'operato del governo sulla burocrazia, sui costi della politica, invece meno bene sull'abbassamento delle tasse, eccoci, torniamo ancora sul tema, e sulla lotta alla disoccupazione, altro tema che questa mattina trova magari meno spazio, ma che comunque resta una costante nei nostri pensieri e diciamo anche nell'emergenza in qualche modo economica. La Stampa torna appunto su Padoan, sulla frase del ministro Padoan, che dice: abbassare le tasse urge un intervento. Ma di tutto questo parliamo tra pochi minuti, perché prima ci fermiamo per qualche spot pubblicitario e le informazioni meteorologiche. In primo piano. Bentornati da Mauro Meazza, ancora una buona domenica. Torniamo alla lettura dei giornali che trovate questa mattina in edicola. Come vi dicevo, molto fisco, molto spazio alla dichiarazione del ministro dell'economia Padoan sulle tasse, la necessità di ridurre il prelievo, e molto spazio anche alla frase di Papa Francesco, che ha scomunicato i mafiosi, ha detto appunto scende la scomunica su 'Ndrangheta. Stiamo allora sul primo argomento: abbassare le tasse è la scelta del titolo più importante, il titolo principale, sia sul Giorno, Quotidiano Nazionale, sia sulla Stampa. Il titolo è praticamente identico: Padoan, tagliare le tasse. Si legge sul Giorno: il ministro ha detto fisco esoso, ma ha anche precisato ci sono troppi disonesti, c'è appunto il problema della evasione fiscale. Intanto, dai dati della Guardia di Finanza apprendiamo che sono stati scoperti 3.070 evasori totali, e lo ricorda appunto il Giorno, Quotidiano Nazionale, sulla sua prima pagina. Per il lavoro aumentano le assunzioni, i contratti diventano più lunghi, questa la segnalazione sul Giorno, che poi mette una grande fotografia in prima pagina di Papa Francesco con le parole mafiosi vi scomunico. Questo sulla prima pagina del Giorno. Sulla Stampa: Padoan, abbassare le tasse urge un intervento. E poi fa capolino nel titolo della Stampa il terzo tema, come dire, della giornata di oggi, o meglio il tema politico, il tema delle riforme. Poi domani da questi stessi microfoni Alessandro Milan ci dirà a quale numero di settimana decisiva siamo arrivati per le riforme istituzionali. Mi pare che avessimo superato oramai la 50ª, ma nella rassegna stampa di domani sicuramente Alessandro ci darà il numero preciso. Perché vi parlo di riforme? Perché appunto la Stampa, ma anche altri giornali, ci segnalano come, anche se sembra che si sia arrivati a un passo dall'accordo, ci sono ancora polemiche sulla l'immunità ai neosenatori, cioè i componenti del nuovo e rinnovato Senato, che, come avete letto in questi giorni, dovrebbe essere composto in una parte ampiamente maggioritaria da consiglieri individuati dalle regioni. Poi ci sarebbero i sindaci e poi anche altri senatori, tra cui quelli nominati a vita dal Presidente della Repubblica. Sulla Stampa poi stessa scelta in qualche modo anche di altri giornali, con la grande foto della scomunica del Papa ai mafiosi. Il Papa scomunica ai mafiosi, voi adorate il male. Sulla Stampa poi anche uno spazio per la nazionale di calcio impegnata nei campionati del mondo in Brasile. Prandelli contro l'Uruguay ricorre al modello Juve, perché appunto, e poi lo conferma in qualche modo la Gazzetta Sportiva più in dettaglio questa mattina, Prandelli ribalta l'Italia, dice la Gazzetta Sportiva: martedì contro l'Uruguay di Cavani e Suarez, sfida da paura dentro o fuori, il CT, il commissario tecnico, studia nuove soluzioni, per questo passa alla difesa a tre, quindi soltanto tre difensori, spazio a De Sciglio, E a Verratti, oltre a un gioco migliore, scrive la Gazzetta Sportiva, servono un altro spirito e un Balotelli diverso, così in prima pagina sulla Gazzetta Sportiva, ma così anche appunto la segnalazione della Stampa nella sua prima pagina, che dice come Prandelli è pronto a cambiare drasticamente l'assetto della nostra nazionale in vista della partita decisiva con l'Uruguay. C'è naturalmente, vista lo spazio, insomma l'importanza anche delle parole del Papa, da dare una necessaria segnalazione ad Avvenire, giornale, come sapete, quotidiano di ispirazione cattolica, come si definisce già nella testata, quotidiano della CEI, della Conferenza Episcopale, che dà appunto in prima pagina, nel suo titolo più importante, spazio alle parole di Papa Francesco. Il Papa sui mafiosi scende la scomunica, il no ai clan, e poi un altro virgolettato, un'altra frase del Papa: mai più violenza sui bambini. Nella visita di Francesco in Calabria, nuovo forte richiamo alla solidarietà, rinunciamo agli idoli del denaro, l'incontro con i carcerati. In una intervista che viene anche richiamata in prima pagina, Don Ciotti, presidente di Libera, come sapete, Don Ciotti dice: la mafia vuole essere una religione, ma non ha nulla di cristiano. E poi a centro pagina, urgente ridurre le tasse, la frase del ministro dell'economia Padoan, e basta evasione. C'è però spazio, ed è quasi una eccezione sulle prime pagine di oggi, anche per le vicende irachene, perché ci segnala Avvenire già in prima pagina che i qaedisti stanno avanzando e Obama intanto ci pensa. Domani ci sono i piani operativi appunto che verranno presentati al Presidente degli Stati Uniti, bisogna decidere se intervenire o meno di fronte a questo paese nuovamente martoriato, nuovamente alle prese con una guerra interna, una guerra intestina. Vorrei stare sulle parole del Papa utilizzando però questa volta un giornale laico, cioè La Repubblica, perché Repubblica decide di dare il suo titolo più importante alla riforma delle riforme istituzionali, immunità e scontro. Si parla naturalmente della immunità per i neo senatori, e Boschi che ha detto: il governo non la voleva, nel mio testo sul Senato non c'era, ricorda la signora ministro già in prima pagina, e i 5 Stelle che dicono: è una concessione a Forza Italia. Polemicamente Calderoli, che è stato uno degli artefici poi del compromesso, dice: vabbè, allora togliamo anche ai deputati. Però nella foto notizia, nella grande foto in prima pagina, Repubblica dà spazio al Papa e affida il commento a Roberto Saviano, ed è interessante questo commento di Saviano, perché se a qualcuno potesse sembrare che le parole del Papa sono come dire l'anatema del Papa, così come lo chiama Repubblica, sono in qualche modo dovute, perché certamente la Chiesa non può stare con la criminalità organizzata, e sarebbe sorprendente, perlomeno sorprendente, che succedesse altro, ma si tratta di capire poi che queste posizioni, che riprendono anche posizioni dei suoi predecessori, tra cui quelle appunto di Giovanni Paolo II, di San Giovanni Paolo II, bene, queste posizioni sono poi anche state talvolta sottolineate da reazioni non irrilevanti della stessa criminalità organizzata. Saviano appunto lo ricorda nel suo articolo oggi su Repubblica, dice: qualcuno potrebbe credere che sia naturale e scontato per la Chiesa ricordare un bambino ammazzato, denunciare i colpevoli, ma non è così. Perché, come il parroco di Cassano qualche tempo fa in un'intervista disse, ancora parliamo di Cocò, è una storia chiusa, ormai abbiamo fatto il funerale. Per Papa Francesco, scrive Saviano, questa non è storia chiusa e non teme di dire che i colpevoli sono i mafiosi. Tenere fuori dalla cristianità gli affiliati, dichiararlo in Calabria, è un atto di coraggio, non è una scelta retorica, non è una disquisizione teologica. La scomunica, ricorda Saviano, è parola smarrita nel tempo, una pena del diritto canonico che ha perduto il senso drammatico, spesso persecutorio, che ha avuto dal IV secolo sino alla fine dello Stato della Chiesa. Ma oggi diventa invece il gesto più fortemente simbolico possibile per estromettere la cristianità e le organizzazioni mafiose, per tagliare i legami che tante volte hanno stretto con le parrocchie locali. Le parole del Papa tuonano come dichiarazione finale, denunciano senza scampo la menzogna dei mafiosi che si autoproclamano cattolici e fedelissimi alla Chiesa di Roma. Anche Giovanni Paolo II, ci informa Saviano, ci ricorda Saviano, aveva pronunciato il 9 maggio del 1993 ad Agrigento un attacco durissimo alla mafia. Convertitevi, aveva detto il Papa, poi divenuto santo, verrà il giudizio di Dio. 2 mesi dopo i corleonesi misero una bomba a San Giovanni in Laterano. E ci sono anche altri episodi che vengono ricordati, che hanno coinciso in qualche modo con questo alzare la pressione da parte delle autorità ecclesiastiche contro la criminalità organizzata e reazioni poi della criminalità organizzata proprio nei confronti della Chiesa e degli uomini di Chiesa. Questo nell'articolo di Saviano che commenta la presa di posizione del Papa ieri contro i mafiosi. Presa di posizione che poi ritorna anche nella prima pagina del Secolo XIX, che però in prima pagina ci segnala anche le manovre in corso per arrivare a una formazione della nuova Commissione europea e alla trattativa Renzi-Germania sugli investimenti. Lo scorporo dal deficit in cambio dell'ok a Juncker, dice il Secolo XIX nella sua prima pagina. Qui si sta trattando in qualche modo discutendo della possibilità di non considerare le spese degli stati per gli investimenti nel famoso rapporto del deficit contro PIL al 3%. Un tetto che per un paese che sta arretrando sul prodotto interno lordo qual è il nostro e non solo il nostro diventa particolarmente punitivo. Ma ci fermiamo ancora un istante, ascoltiamo le informazioni sul traffico. In primo piano. E ancora una buona domenica da Mauro Meazza, questa mattina per la rassegna stampa, per segnalarvi le prime pagine, gli anche articoli che occhieggiano già dalle prime pagine dei giornali, e grazie soprattutto a Carmelo Lauricella che rende possibile tutto questo restando presente e vigile in regia. Vi dicevo, molto fisco, molto spazio alle parole del Papa ieri contro la criminalità organizzata, la scomunica, una parola che appunto una parola d'altri tempi in qualche modo che Papa Francesco è tornato a utilizzare, ma molto fisco perché ieri il ministro dell'economia ha detto che bisogna abbassare le tasse. Meno tasse, piano del governo, è la scelta del Messaggero, che allora mette un po' insieme, come avevamo visto anche sul Sole 24 Ore, che come vi dicevo in apertura di questa trasmissione si occupa di alcuni aspetti delle riforme in corso sul fisco, tra cui la riforma del catasto, e c'è la possibilità di nuovi pesanti aumenti per le imposte sulla casa, lo scrive il Sole 24 Ore questa mattina, così anche un po' il Messaggero riprendendo altri temi della riforma fiscale che vengono poi ricordati nelle pagine interne. Allora, oltre alle dichiarazioni del ministro dell'economia, appunto, che Piercarlo Padoan, che ha detto urgente ridurre le tasse, un fisco più equo con chi è onesto, serve meno pressione tributaria per rilanciare la crescita, e poi anche le parole del Presidente della Repubblica Napolitano, l'evasione è una minaccia potente che mina lo sviluppo. Quali sono però i prossimi passi del governo in materia di fisco? Quali potrebbero essere? Bene, lo ricorda il Messaggero a pagina 3. Il piano prevede un bonus fiscale più ampio, stiamo parlando degli 80 euro, quelli che sono stati inseriti nelle buste paga di qui alla fine dell'anno, ma che si vuole rendere permanenti ed estendere anche come platea, sconti alle famiglie numerose. Il taglio dell'IRPEF verrebbe allargato agli incapienti, cioè a coloro che non hanno imposte sufficienti perché i redditi sono troppo bassi, quindi non pagano neanche imposte, però in questo modo ci sarebbe un sollievo anche per loro, e ai nuclei monoreddito con più di 2 figli. Le prossime tappe ricordate poi ad accompagnare un articolo di Andrea Bassi oggi sul Messaggero. Per la riforma del fisco sono tra l'altro la riforma di Equitalia, la rivisitazione dell'abuso di diritto, questo è un tema particolarmente ostico, magari non molto popolare, ma invece molto importante perché si tratta appunto della interpretazione delle normative fiscali, la revisione delle sanzioni penali amministrative, la riforma delle accise, la revisione della tassazione dei giochi pubblici e poi ancora la razionalizzazione delle tax expenditures, parola, termine inglese che poi sta a dire che bisognerebbe rivedere un po' il sistema degli sconti fiscali, deduzioni e detrazioni. L'introduzione del contrasto di interessi, diciamo meglio l'estensione a quello che dice anche la delega fiscale, la delega affidata al governo per la riforma del fisco e poi rendere permanente il bonus da 80 euro e allargarlo appunto agli incapienti e alle famiglie numerose monoreddito. Questo sul Messaggero oggi, che poi in prima pagina decide anche di dare rilievo, di dare evidenza alla rimozione del prefetto di Perugia, che appunto aveva usato parole molto forti sulla necessità che le famiglie vigilino nella lotta, nel contrasto agli stupefacenti nei confronti dei figli. Aveva detto testualmente: se non si accorge che suo figlio si droga, una mamma è fallita e si deve suicidare. Queste le parole del prefetto che non sono piaciute né al Presidente del Consiglio né soprattutto al Ministro dell'Interno, che Ministro Angelino Alfano, che ha detto sono dichiarazioni gravi e inaccettabili, non può restare lì né altrove, assumerò immediati provvedimenti. Quindi costa cara al prefetto la frase pronunciata forse un po' sull'onda del parlare in pubblico e però decisamente voce dal sen fuggita, si diceva nell'opera lirica, in questo caso con conseguenze molto pesanti. Vi dicevo che ci sono molte cose sul fisco oggi nelle prime pagine, ce n'è una anche che viene recuperata dal giornale e da Libero, recuperata perché è una misura che è stata varata venerdì su il giornale viene presentata così: Renzi ci aumenta le tasse mentre guardiamo la partita e Libero, la Spagna taglia le tasse, l'Italia le aumenta. Qui il riferimento è alle misure di riduzione del prelievo fiscale decise dalla Spagna, e invece l'aumento delle tasse è riferito a quello dell'equo compenso. Allora, non è propriamente una tassa, ma vediamo meglio all'interno nelle pagine interne del giornale. Qui si tratta appunto di un prelievo che viene applicato sui supporti come gli smartphone, i tablet, ma anche le chiavette, i CD, le chiavette per appunto i DVD, tutti i supporti per incidere. Ebbene, questi supporti vengono gravati già da un prelievo che è destinato a tutelare poi gli autori e gli editori, soprattutto gli autori, e riassume bene il contrasto il Libero nella sua pagina interne: tassa sui cellulari, così la chiama, per in qualche modo identificarla rapidamente. Per tutelare gli autori si colpiscono i clienti, per proteggere giustamente la proprietà intellettuale degli artisti si penalizzano ancora una volta i consumi, così l'economia non ripartirà mai e a pagare in proporzione saranno i più poveri. Poi lo specchietto di quanto si paga, che va da 10 centesimi per un CD fino ai 4 euro che vengono imposti a un tablet con memoria da 16 giga, è una imposta appunto, è un po' difficile già definirla imposta perché in realtà si tratta di un aggravio che non ha precisamente una natura fiscale, quanto appunto quella di tutelare, difendere i produttori di opere intellettuali dalla possibilità appunto della loro libera circolazione data dagli smartphone, dai tablet, come sapete, dalle chiavette USB. È più polemico l'approccio del giornale che riassume il tutto con: il governo aumenta le tasse mentre guardiamo gli azzurri. Il ministro Franceschini approfitta della partita nazionale per aggiornare le tariffe dell'equo compenso su tablet e smartphone. Sarà una mazzata con aumenti fino al 500%. Poi si spiega Clarissa Gigante nel suo articolo: è una tassa introdotta nel 2003 dopo una direttiva europea. È presente in tutti i paesi dell'Unione Europea, in alcuni casi con cifre ben più alte. Questo prelievo deve essere aggiornato ogni 3 anni, però nel 2012, che era appunto l'ultimo aggiornamento, Monti aveva altro a cui pensare, i governi successivi hanno rimandato. Franceschini no, aggiornerò l'equo compenso, aveva promesso ad aprile, e così per i prossimi anni, quando compreremo uno smartphone o un tablet pagheremo senza nemmeno accorgercene da 3 euro a 4,80 euro per il diritto d'autore contro gli appena 90 centesimi che erano previsti fino a ieri per i telefonini. Un aumento di circa il 500%, calcola appunto la collega Clarissa Gigante oggi su Il Giornale. E a proposito di denaro pubblico, ancora una ventina di secondi prima di salutarvi, allora vi segnalo queste polemiche sulla possibilità per i Rolling Stones oggi in concerto a Roma di utilizzare il Circo Massimo, sì, ma a solo 8.000, solo si fa per dire, 8.000 euro. L'opposizione annuncia un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale. E con questo è tutto, grazie e buona domenica ancora da Mauro Meazza.